C'è una rete universitaria che unisce appunto la mobilitazione studentesca a quella del personale accademico, quindi docenti, ricercatori e ricercatrici, e anche il personale amministrativo. Nel mese di novembre sono stati istituiti dei tavoli di lavoro congiunti, dei tavoli di lavoro diciamo informale, in cui appunto le varie componenti universitarie si sono riunite e hanno cercato di mettere su una campagna di solidarietà nei confronti della Palestina, ma di sensibilità, ma anche di boicottaggio accademico. Qui a Bologna sempre, come dire, la comunità ebraica e in particolare il suo presidente tra le righe ha accusato chi faceva appelli per la Palestina di antisemitismo. Voi cosa pensate di questa cosa? Ma le accuse di antisemitismo sono piuttosto diffuse nei confronti dei gruppi che si organizzano in solidarietà alla Palestina, e il problema di queste accuse è che portano con sé una profonda ignoranza nei confronti di quello che è il movimento di solidarietà alla Palestina, che è un movimento antisionista, non antisemita. Ci sono delle differenze che non vengono spesso colte e di conseguenza poi si scade appunto in delle accuse che però, cioè, mi sento di dire che noi non abbiamo assolutamente niente a che vedere con l'antisemitismo, anzi le accuse che vengono mosse nei confronti dei gruppi antisionisti di antisemitismo vanno in realtà a rinforzare l'antisemitismo stesso. L'iniziativa di oggi si chiama Student Intifada, insomma un nome forte. Sì, questo slogan in realtà è stato attribuito da una comunità di accademici dell'Università Palestinese di Birzit ed è stato dato alle mobilitazioni in primis statunitensi che si sono viste appunto nell'ultimo mese nei vari campus universitari. Noi abbiamo accolto questo slogan perché ci sembra comunque appropriato visto il lavoro di mobilitazione che è stato fatto negli ultimi mesi, quindi abbiamo deciso anche noi di continuare a manifestare la nostra solidarietà nei confronti di tutti i gruppi in lotta nelle varie università e soprattutto nei confronti del movimento di solidarietà globale alla Palestina. Sia negli Stati Uniti ma anche in Francia e altrove abbiamo visto le autorità reagire in modo molto violento e repressivo a gruppi che come voi esprimevano solidarietà alla Palestina. Sì, diciamo che c'è una risposta repressiva diffusa dovuta alla militarizzazione della società civile, dovuta anche all'uso di dispositivi securitaristi, quindi di polizia appunto militari, nel reprimere il dissenso, cioè non c'è più un'educazione all'ascolto del dissenso, all'ascolto di quelle che sono le istanze che divergono dalla posizione dello status quo e dalla posizione dominante, quindi il risultato che vediamo poi sono i manganelli in piazza. Parlando del boicottaggio accademico, sostanzialmente voi cosa chiedete? Un'etica nei progetti dell'università? Noi chiediamo una demilitarizzazione dell'università, quindi la cessazione degli accordi con la filiera bellica che crea morte e distruzione in tutto il mondo, e nello specifico anche il boicottaggio delle università israeliane. Questo perché le università israeliane sono un nucleo fondamentale del movimento sionista di apartheid, di occupazione e di pulizia etnica in Palestina. Di conseguenza noi riteniamo che se l'università di Bologna, ma in generale le università italiane, si vogliono dichiarare per la pace, per la giustizia e per il progresso, quello che devono fare in questo momento è boicottare, così come è stato fatto per esempio nel movimento di boicottaggio contro l'apartheid in Sudafrica. Ecco, a Torino ad esempio qualche risultato si è ottenuto, il Politecnico ha rinunciato alla partecipazione al bando Maeci. A Bologna? Anche a Bologna non sono state manifestate adesioni al bando Maeci, risultato per cui ovviamente siamo contente, ma allo stesso tempo non è abbastanza perché l'Università di Bologna ha numerosi accordi da un lato con la filiera bellica, dall'altro lato con le università israeliane, e noi non smetteremo di mobilitarci finché non saranno rescissi tutti gli accordi.